con l'autore, attore Saverio Raimondo per parlare dell'evento That's All Folks a Roma, Anacosetta, mercoledì 9 gennaio 2019. Saverio, ben trovato. Ben trovati a voi, come va? Come state? Buon anno. Auguri, be bellissimo, è tutto bello. Mi è arrivato questo invito, volevo saperne di più, raccontaci un po'. Guarda, ma a me è successa la stessa cosa, mi è arrivato questo invito e io ho accettato per scoprire di che cosa si tratta, perché la verità, io non so questa sera che cosa succederà a Tettol Folks, una cosa, pertanto non solo vado io, ma invito tutti a venire perché in effetti non ho la più pallida idea di che cosa Diretta Parlangeli, che è la persona che mi ha concupito in qualche modo, circuito, sedotto e mi ha invitato pertanto a fare non so cosa. E quindi a venire a scoprirlo, perché non lasciatemi solo, non lasciatemi solo, non vorrei che fosse un'imboscata, ecco. Però solo non sarai perché ci sarà anche il duo tu. Esatto, è uno dei motivi per cui ho accettato. È uno dei motivi, è uno dei modi con cui Diletta mi ha in qualche modo appunto sedotto a questo invito, mi ha catturato, dicendo che ci sarebbero stati tu. Ho detto, vabbè, allora se ci sei tu, no, ma ci saranno tu. Ah, beh, allora se ci saranno tu, a maggior ragione, vengo anche io. Quindi siamo io, tu, adesso vediamo se ci sarà anche egli, noi, essi. Senti Saverio, ma sai comunque di cosa tratta il contenitore That's All Folks? No, No, voi lo sapete? ah, Io bellissimo. no. Io non lo so, è il motivo per cui ho accettato. Di Ah. solito uno perché non va nei posti, che dice, vabbè, ma già lo so, già lo conosco, non mi va, non mi piace. Invece io accetto tutte le cose che non conosco. Quindi ho accettato, ripeto, gli ingredienti ci sono, a me basta che ci siano i tu, ho detto, vabbè, vado a sentire i tu. Poi mi chiederanno qualcosa, io qualunque cosa mi chiedano, io faccio, posso eventualmente anche cucinare, no? Bene o male, non lo so, lascerò eventualmente a chi mangia decidere, ma non credo che mi chiederanno di cucinare, forse mi chiederanno di leggere qualcosa, forse mi chiederanno di dire qualcosa. Ecco, se mi chiederanno di dire qualcosa, io dirò qualcosa, se mi chiedono di leggere qualcosa, io leggerò qualcosa. Ma io non so cosa succede, io Senti, davvero non lo so. l'improvvisazione comunque è uno dei pezzi Ecco, forti esatto. del tuo percorso artistico. Beh, diciamo che ormai è entrata dentro di me, o io dentro lei, non lo so, quindi insomma in qualche modo ci si. Anche se sono una persona che scrive sempre molto, però proprio questa parte di scrittura non lascia fuori l'improvvisazione, al contrario, la contempla e in qualche modo il completamento del processo di scrittura, e pertanto credo che stasera ci sarà più di improvvisato che di scritto, appunto. Saverio, ci eravamo sentiti l'ultima volta per il tuo libro e dopodiché questa stagione dove ti vedrai impegnato? Ma guarda, sicuramente stasera mi vedete appunto a una cosetta, però appunto di tornare live con il mio spettacolo di stand-up comedy a Roma quanto prima, forse già a febbraio, quindi sta, come dire, stay tuned, come dicono gli anglicismi, e avrete informazioni. Poi appunto me ne andrò molto in giro con il mio spettacolo di stand-up comedy per tutto l'inverno e primavera, arriverà una nuova stagione di CCN su Comedy Central. E chissà che non arrivi anche qualche altro progetto a cui sto lavorando, ma vediamo un po' se arriva in porto. Poi ogni sabato sera li potete vedere alle parole di Gramellini su Rai 3. Ho trovato questo spazio nel quale racconto gli oggetti della settimana, ovviamente a modo mio. E poi quel libro di cui tu parlavi, ovviamente, è ancora acquistabile. Quindi se si vuole leggere un libro umoristico sull'ansia, sapete a chi rivolgervi. Ecco, il titolo è Stiamo calmi, ne abbiamo parlato ad aprile, che bilancio puoi fare intanto di questi mesi? Il libro è andato molto bene, siamo alla terza ristampa, ma anche perché l'ansia sta aumentando, anche perché ci sono sempre più motivi per cui preoccuparsi nel mondo e a maggior ragione in Italia. Quindi, come dire, la gente si sveglia la mattina e si scopre sempre più ansiosa, quindi avere una guida come il mio libro, che in qualche modo appunto guida, perdonate, la ripetizione all'interno del fantastico mondo dell'ansia, allora inevitabilmente sta diventando un po' un libro imprescindibile, un po' come il Vangelo, il Corano o il Mein Kampf, ecco. Senti, tornando invece alle tue esibizioni live, Roma si sta accorgendo della stand-up comedy? Beh, Roma è stata sicuramente la prima città nella quale si è fatta consapevolmente stand-up comedy in Italia, no? Con Satiriasi, quindi fin dal 2009 Roma è stata la città protagonista, è stata per molti anni anche l'unica città dove si potesse assistere a della stand-up comedy in Italia. Adesso in questo momento Roma, purtroppo lo sappiamo, sta vivendo forse la sua fase peggiore da Romolo e Remo, e quindi anche sulle stand-up comedy si sta facendo superare in questo momento nettamente. A Milano c'è molta più offerta, sia quantitativamente che qualitativamente. Questa è una beffa perché la maggior parte degli stand-up comedian in realtà non sono milanesi, quindi in realtà c'è questa fuga degli stand-up comedian romani che vanno a Milano a fare serata e se ne fanno molte di più a Milano che a Roma. Io stesso che abito a Roma, a Milano già da settembre ad oggi ho fatto già quasi credo una decina di serate e a Roma neanche una. Eppure a Roma, ripeto, ci sono i comici, ma mancano i posti. Posti che siano in grado di fare una programmazione consapevole, decentemente retribuita e che sappiano quindi rivolgersi a un pubblico. E poi devo dire mancano un po' le persone, nel senso che ci vogliono persone che animino la scena. Mi rendo conto che la città, appunto, lo abbiamo detto, fa letteralmente schifo, è possibile muoversi, eccetera, eccetera. Però dobbiamo, ma per il nostro stesso bene, uscire di casa, tornare a frequentare i posti, far vivere questa città, pur nella sua disgustosa decadenza. Saverio, ci lasciamo con un tuo breve? Con un mio breve cosa? Come Io sono stasera, breve, che come statura. stasera. Come stasera, dici? Così, all'impronta. E allora, visto che abbiamo parlato di ansia, appunto, ecco, stasera voi sicuramente mi vedrete, non so se parlare di ansia, penso di sì perché finisco spesso col parlarne, ma senz'altro mi vedrete in ansia, perché proprio perché non so di che cosa andremo a parlare, a maggior ragione vivrà in me quella che è l'ansia di parlare in pubblico, che è l'ansia, pensate, è l'ansia più diffusa al mondo. La paura di parlare in pubblico è l'ansia più diffusa al mondo, ovviamente seconda sola alla paura di morire, che è seconda sola alla paura di morire mentre si sta parlando in pubblico. Ecco, questa è un po' la classifica delle ansie. Bene, ricordiamo l'appuntamento con That's All Folks, con Saverio Raimondo e il duo Tu a Roma, una cosetta, mercoledì 9 gennaio 2019. Saverio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Crazy, a stasera, ciao! Ciao.